Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Orgoglio e pregiudizio è sicuramente il romanzo più famoso di Jane Austen, il più rappresentato al cinema e a teatro, il più amato, il più romantico. Ma nonostante sia considerato un romanzo culto della letteratura di ogni tempo, è a nostro avviso forse il meno interessante tra quelli usciti dalla sua penna, poiché manca in parte di quell'anelito all'emancipazione e di quella critica ai costumi del tempo di cui invece gli altri suoi romanzi sono pregni. Sappiamo che l'attività letteraria di Jane si svolse nell'arco di pochissimi frenetici anni, dalla pubblicazione di Ragione e Sentimento nel 1811 alla prematura morte, poco più che quarantenne, nel 1817. Orgoglio e pregiudizio fu il suo secondo romanzo pubblicato e fu accolto immediatamente con favore dal pubblico. Il suo pregio è la vivacità della trama, l'incredibile atto d'orgoglio della protagonista, che per difendere la sorella rifiuta un ottimo partito, pensiamo che all'epoca un buon matrimonio era l'unico obiettivo delle ragazze di buona famiglia, e, in certo qual modo, la suspense amorosa che Jane riesce a creare nonostante i ben pochi elementi a disposizione dell'esperienza di una fanciulla vittoriana che pratichi il famigerato decoro. La Scuola delle Donne ha già pubblicato di Jane Austen la lettura di Ragione e Sentimento, Mansfield Park, L'Abbazia di Northanger e Persuasione. Tutti ascoltabili su questo stesso canale. Siamo ora liete di proporre Orgoglio e Pregiudizio nell'edizione Rizzoli, tradotta da Maria Luisa Agosti Castellani e letta da Giorgia. Da Devana, buon ascolto. Capitolo 1. È verità universalmente ammessa che uno scapolo fornito di un buon patrimonio debba sentire il bisogno di ammogliarsi. Per poco noti che siano i sentimenti o le mire di un tal uomo, questa verità è così solidamente radicata nella mente delle famiglie circostanti che subito, al suo primo apparire in una cerchia di vicini, egli viene considerato di diritto proprietà dell'uno o dell'altra delle loro figliole. «Mio caro Bennet», disse un giorno una signora a suo marito, «hai sentito che Netherfield Park è stato finalmente affittato?» Il signor Bennet rispose di no. «Sì, è affittato!» ribadì la signora. «È appena stata qui la signora Long e mi ha raccontato ogni cosa!» Il signor Bennet non rispose. «Non ti interessa sapere chi l'ha preso?» tornò a dire la moglie impazientita. «Se me lo vuoi proprio dire, io non ho nulla in contrario ad ascoltarti!» L'incoraggiamento bastò. Ecco, caro, devi sapere che la signora Long dice che Netherfield è stato affittato da un giovanotto ricchissimo dell'Inghilterra del Nord, che costui è venuto qui lunedì con un tiraquattro per visitare il posto e ne è rimasto così entusiasta che gli è riuscito facile accordarsi subito col signor Morris, che ne deve entrare in possesso prima di San Michael e che già alla fine della settimana Ventura manderà a occupare la casa da qualche domestico. Come si chiama? Bingley. Scapolo o ammogliato? Oh, caro, scapolo si capisce! Uno scapolo ben provvisto di mezzi. 4-5 mila sterline all'anno. Che bella cosa per le nostre figliole! Perché? Che c'entrano le figliole? Mio caro Bennet, gli rispose la signora, come fai ad essere così esasperante? Devi sapere che sto meditando di fargliene sposare una. Si viene a stabilire qui con codesta intenzione? Intenzione? Che sciocchezze! Come si fa a parlare così? Ma è probabilissimo che si innamori di una di loro. Appunto per questo dovrei fargli visita appena arrivato. Non ne vedo la necessità. Puoi andarci tu con le figliole o mandarle loro da sole, il che forse sarebbe ancora più opportuno. Non sei meno bella di loro e non escluderei che il signor Bingley preferisse te al resto della spedizione. Caro, tu mi lusinghi. Certo, ho avuto anch'io la mia parte di bellezza, ma ormai non pretendo di essere alcunché di straordinario. Quando una donna ha 5 figliuole da marito, dovrebbe rinunciare al pensiero della propria avvenenza. In simili casi è raro che una donna ne possegga ancora tanta da doverci pensare. Comunque, mio caro, devi proprio andare a fare una visita al signor Bingley quando verrà a far parte del nostro vicinato. È più di quanto io possa impegnarmi di fare, te lo assicuro. Ma pensa alle tue figliole, pensa che bella sistemazione potrebbe essere per una di loro. Sir William e Lady Lucas sono decisi a farlo. unicamente con questo scopo, che in generale, tu lo sai, non fanno visite ai nuovi venuti. Proprio devi andarci. Se prima non ci vai tu, noi non potremo mai fargli visita. Ti fai degli scrupoli eccessivi, è fuori di dubbio. Sono sicuri invece che il signor Bingley sarà lietissimo di fare la vostra conoscenza. Io potrò mandargli due righe per mezzo vostro, assicurandolo del mio cordiale consenso al suo matrimonio con quella delle nostre figliole che gli piacerà di scegliere, per quanto mi senta in dovere di mettere una buona parola in favore della mia Lizzy. Questo poi non vorrei proprio che tu lo facessi. Lizzy non è punto migliore delle altre, anzi, sono sicura che non è bella nemmeno la metà di Jane e che non ha la metà dello spirito di Lydia. Ma già, è sempre a lei che tu dai la preferenza. Oh, nessuna delle cinque ha un granché da far valere, ribatté il padre. Sono tutte sciocchine e ignoranti come le altre ragazze. Ma Lizzy ha un'intelligenza più pronta delle sorelle. Ma Bennet, come puoi sparlare delle tue creature in codesta maniera? Ti diverti a tormentarmi, non hai nessuna pietà dei miei poveri nervi. Ti sbagli, mia cara. Ho anzi il massimo rispetto per i tuoi nervi, che sono miei vecchi amici. Sono almeno 20 anni che te li sento nominare in tono di alta considerazione. Oh, tu non sai quanto soffro, ma spero che ti rimetterai in salute e che vivrai abbastanza per vedere molti giovanotti con 4.000 sterline all'anno entrare nel nostro vicinato. Ma se venissero anche 20, che cosa conterebbe per noi dal momento che tu ti rifiuti di andarli a trovare? Sta certa, cara, che quando ce ne fossero 20, andrei a far visita a tutti. Il signor Bennet era un così curioso miscuglio di prontezza di spirito, di sarcasmo, di riserbo e di capriccio che l'esperienza di 23 anni non era bastata a sua moglie per capirne il carattere. Quanto al carattere di lei, l'analisi presentava minori difficoltà. Era una donna di meschino comprendonio, di scarsa cultura, di umore instabile. Quando non si sentiva soddisfatta, si metteva in testa di essere nervosa. Non aveva altra mira nella vita che quella di maritare le figlie. Nessun altro svago che le visite e le notizie fresche. Capitolo 2. Il signor Bennet fu tra i primi a rendere omaggio al signor Bingley. Ne aveva sempre avuto l'intenzione, benché fino all'ultimo avesse continuato ad assicurare alla moglie che non sarebbe andato, ed ella non ebbe notizia fino alla sera successiva alla visita. Il fatto venne allora rivelato in questo modo. Mentre osservava la sua secondogenita intenta alla guarnizione di un cappello, il signor Bennet le rivolse a un tratto la parola. «Spero, Lizzy, che piacerà al signor Bingley!» «Non abbiamo alcuna probabilità di sapere che cosa piaccia o non piaccia al signor Bingley», gli ribatté la moglie in tono risentito, «dal momento che non ci è consentito di fargli visita». «Ma mamma», intervenne Elizabeth, «lei dimentica che lo vedremo alle feste di ballo e che la signora Long ha promesso di presentarcelo». «Non credo che la signora Long farà alcunché di simile. Ha le sue due nipoti, lei. È un egoista, un ipocrita per la quale non ho la minima stima». «Neppure io», disse il signor Bennet, «e sono lieto di scoprire che non fai alcun assegnamento sui suoi servigi». La signora Bennet non si degnò di rispondere, ma incapace di trattenersi, cominciò a sgridare una delle figliole. «Kitty, per amor del cielo, smettila di tossire in codesto modo! Abbi un po' di misericordia per i miei nervi, me li fai a pezzi!» «Kitty non ha discernimento in materia di tosse», osservò il padre, «si produce fuori tempo». «Ma io non tossisco mica per divertimento», rispose Catherine irritata. «Quando sarà il tuo prossimo ballo, Lizzy?» «Domani, a 15. «Già, proprio», esclamò la mamma, «e la signora Longa non sarà di ritorno per il giorno prima. Così non le sarà possibile presentarlo, perché non lo conoscerà neppure lei». «In tal caso, mia cara, potrai prendere vantaggio sulla tua amica e presentarle tu, il signor Bingley». «Impossibile, Bennet, impossibile, se neppure io lo conosco. Perché ti diverti a tormentarmi?» «Rendo omaggio alla tua circospezione. Una conoscenza che è data da sola 15 giorni è certo povera cosa. Non si può pretendere di sapere veramente che sia una persona in capo a 15 giorni. Ma se non ci esponiamo noi a questo rischio, lo farà qualcun altro. E dopo tutto, la signora Long e le sue nipoti devono pur tentare la sorte. Perciò, qualora ella lo ritenesse un atto di cortesia, se declini tu tale incarico, lo assumerò io stesso». Le ragazze fissarono il padre sbalordite. La signora Bennet si accontentò di esclamare «Sciocchezze, sciocchezze!» «Che cosa vuoi significare con codesta enfatica esclamazione?» domandò il marito. Consideri forse sciocchezze le formalità di una presentazione e l'importanza che viene loro attribuita? Non posso dichiararmi d'accordo con te su questo punto, allora. Che ne dici, Mary? Tu non sei una signorina di profondo pensiero che legge grandi libroni e ne fa estratti? Mary avrebbe desiderato dire qualcosa di molto saggio, ma per l'appunto non seppe che dire. Mentre Mary riordina le sue idee, continuò il padre, torniamo al signor Bingley. Sono stufa del signor Bingley, gli gridò la moglie. Ciò mi rattrista. Perché non dirmelo prima, allora? Se l'avessi saputo anche soltanto stamani, non sarei certo andato a trovarlo. È un vero peccato. Ma poiché ormai la visita l'ho fatta, non si può più sfuggire a questa nuova relazione. Lo stupore dimostrato dalle donne era proprio quanto egli aveva desiderato. Quello della signora Bennet, poi, superava quello delle figlie. Tuttavia si è dato il primo scoppio di gioia e la cominciò a dichiarare che questo era proprio ciò che si era sempre aspettata da lui. «Come sei stato buono, mio caro Bennet! Ma lo sapevo che avrei finito per convincerti. Ero sicura che vuoi troppo bene alle tue figliole per trascurare una conoscenza come questa. Come sono contenta! E come sei stato di spirito! Fin da questa mattina ci sei stato e non hai detto una parola fino adesso!» «Ora, Kitty, puoi tossire quando ne hai voglia», disse il signor Bennet. E così dicendo, stanco degli entusiasmi della moglie, lasciò la stanza. «Che buon babbo avete, figliole mie!» esclamò la signora Bennet quando la porta fu richiusa. «Non so come potrete mai compensarlo della sua bontà, né me della mia. Alla nostra età non è piacevole stringere nuove relazioni ogni giorno, ve lo dico io, ma per amor vostro faremo qualunque cosa». Lidia, amor mio, benché tu sia la minore, prevedo che il signor Bingley ti farà danzare alla prossima festa. Oh, rispose Lidia tutta orgogliosa, non ho nessun timore. È vero che sono la più giovane, però sono la più alta di tutte. Il resto della serata passò in congetture. Quando avrebbe ricambiato la visita del signor Bennet il nuovo vicino e quando si sarebbe dovuto invitarlo a pranzo? Capitolo 3. Eppure, nonostante tutto quello che la signora Bennet, assistita dalle sue cinque figliole, poté chiedere in merito, non ci fu verso di riuscire a cavare al marito una soddisfacente descrizione del signor Bingley. Lo attaccarono in vario modo, con domande dirette, con ingegnose supposizioni, con insinuazioni velate, ma egli seppe tener testa all'abilità di ognuna, tanto che dovettero infine accontentarsi di accettare le informazioni di seconda mano della loro vicina, Lady Lucas. Il resoconto di costei fu favorevole al massimo. Sir William se n'era dichiarato entusiasta. Bingley era giovane, meravigliosamente bello, estremamente simpatico e a degno coronamento di tutto ciò aveva manifestato l'intenzione di partecipare al prossimo ballo con una numerosa comitiva. Che cosa desiderare di più? Amare il ballo era già per se stesso un primo passo sulla strada dell'innamoramento. Così sul cuore del signor Bingley si nutrivano le più dolci speranze. «Se faccio tanto di riuscire a vedere una delle mie figliuole felicemente accasata a Netherfield», aveva detto al marito la signora Bennet, «e tutte le altre altrettanto ben maritate, non avrà più niente da desiderare». Di lì, a pochi giorni, il signor Bingley ricambiò la visita del signor Bennet e per circa 10 minuti si intrattenne con lui in biblioteca. Aveva nutrito la speranza di essere ammesso alla vista delle signorine della cui bellezza aveva tanto sentito parlare, ma non vide che il padre. Le signorine furono invece un poco più fortunate, in quanto riuscirono ad accertare da una finestra del piano superiore che portava una giacca blu e cavalcava un cavallo nero. Subito dopo venne mandato un invito a pranzo e già la signora Bennet aveva progettato quali fossero i piatti destinati a dar credito alle sue qualità di padrona di casa, quando giunse una risposta che differì ogni cosa. Il signor Bingley era costretto a trovarsi in città l'indomani e di conseguenza impossibilitato ad accettare l'onore del loro invito, e così via. La signora Bennet ne rimase alquanto sconcertata. Non riusciva ad immaginare quali affari quel giovane potesse avere in città, così subito dopo il suo arrivo nello Hertfordshire, e cominciò a temere che Bingley avesse l'abitudine di svolazzare di continuo da un posto all'altro e non dovesse mai rimanere fisso a Netherfield come avrebbe dovuto. Lady Lucas quietò un poco le sue apprensioni, insinuando l'idea che egli si fosse recato a Londra soltanto allo scopo di radunare una numerosa comitiva per il ballo. Venne presto riferito, infatti, che il signor Bingley avrebbe portato alla festa 12 dame e 7 cavalieri. Le ragazze si dolsero di tanta esuberanza dell'elemento femminile, ma il giorno prima del ballo si consolarono, udendo che invece di 12 le dame giunte da Londra sarebbero state soltanto 6, le 5 sorelle di Bingley e una cugina. Quando poi la comitiva entrò in sala per davvero, non si componeva in realtà che di 5 persone: il signor Bingley, due sue sorelle, il marito della maggiore di esse e un altro giovanotto. Il signor Bingley era bello di aspetto e signorile di modi, aveva un viso simpatico e maniere semplici, punto affettate. Le sue sorelle erano belle creature, con un tono decisamente moderno. Suo cognato, il signor Arsta, aveva soltanto l'aria di un gentiluomo. Ma l'amico di Bingley, il signor Darcy, non tardò ad attrarre l'attenzione dei convenuti per la sua bella statura, i lineamenti perfetti, il volto nobile e la notizia che già circolava dopo 5 minuti dal suo ingresso nella sala. Aveva una rendita di 10.000 sterline all'anno. L'elemento maschile lo definì una bella figura d'uomo, le signore lo dichiararono molto più avvenente dello stesso Bingley, e per metà della serata tutti gli sguardi si appuntarono su di lui pieni di ammirazione. Ma alla fine il suo modo di fare provocò una reazione che mutò la corrente della sua popolarità. Si scoperse cioè che era un superbo, che si riteneva da più della sua compagnia e si giudicava troppo in alto per potersi divertire. Allora, nemmeno la sua vasta tenuta nel Derbyshire poté risparmiargli di avere un aspetto antipatico, addirittura scostante, ed essere indegno di venir messo a confronto col suo amico. Il signor Bingley non aveva tardato a far conoscenza con tutti i principali personaggi convenuti al ballo. Era un uomo vivace e comunicativo. Non perdette un giro di danza, si dichiarò spiacente che la festa fosse terminata così presto e parlò di volerne offrire una egli stesso a Netherfield. Qualità tanto amabili parlano di per sé stesse. Che contrasto fra lui e il suo amico. Il signor Darcy aveva ballato una sola volta con la signora Hurst e una con la signorina Bingley. Aveva rifiutato di essere presentato a qualunque altra dama e aveva trascorso il resto della serata a passeggiare su e giù per la sala, scambiando ogni tanto qualche parola con le persone del suo gruppo. Il verdetto sul suo carattere fu pronunciato. Era l'uomo più superbo e più antipatico del mondo, e tutti furono d'accordo nello sperare che non sarebbe tornato mai più. Tra i suoi oppositori più violenti si contava la signora Bennet, la cui reazione al suo comportamento in generale fu resa più acuta ed assurse ad un sentimento di astio particolare per il fatto che quell'uomo aveva mancato di riguardo verso una delle sue figliole. Per via della scarsità di cavalieri, Elizabeth Bennet era stata costretta a rimanere seduta per 2 giri consecutivi. Ora, durante parte di quel tempo, il signor Darcy era rimasto in piedi abbastanza vicino a lei perché la potesse cogliere una conversazione svoltasi fra lui e il signor Bingley, il quale si era assentato per qualche minuto dalla danza per andare a sollecitare il suo amico a unirsi agli altri. «Vieni, Darcy!» egli aveva detto. «Voglio che tu balli. Non posso sopportare di vederti qui in piedi tutto solo come un allocco. Faresti molto meglio a ballare!» Non me lo sogno neppure. Sai quanto detesti il ballo, a meno che non conosca molto bene la mia dama. Ma un ballo come questo, ballare diventa insopportabile. Le tue sorelle sono impegnate e non c'è altra donna nella sala con la quale il ballare non sarebbe per me un vero castigo. Al tuo posto io non farei tanto lo schizzinoso, esclamò Bingley. No, per tutto l'oro del mondo. Parola d'ordine, non ho mai incontrato in vita mia tante fanciulle simpatiche come questa sera. Alcune poi sono particolarmente graziose. Ma tu stai ballando con l'unica bella ragazza della sala, rispose il signor Darcy, con un'occhiata alla maggiore delle signorine Bennet. Certo, è la più bella creatura che io abbia mai veduto. Ma c'è sua sorella, che sta seduta proprio dietro a te, che è pure molto carina e sono sicuro che è simpaticissima. Lascia che io preghi la mia dama di presentarti. Che intendi dire? E giratosi, fissò per un momento Elizabeth, finché, colto un suo sguardo, ritirò il proprio dicendo freddamente. È passabile, ma non abbastanza bella per tentare un uomo par mio. E in questo momento non sono disposto a occuparmi di signorine trascurate da altri cavalieri. Farei meglio a tornare dalla tua dama e a godere dei suoi sorrisi, che con me sprechi tempo. Il signor Bingley ne seguì il consiglio. Darcy si allontanò ed Elizabeth rimase al suo posto con sentimenti tutt'altro che cordiali nei riguardi di lui. Tuttavia, seppe raccontare la storia con molto spirito fra le sue amiche, e lei aveva infatti un temperamento vivace, giocondo, capace di godere del lato comico delle cose. Nel complesso, la sera passò piacevolmente per tutta la famiglia. La signora Bennet aveva visto la maggiore delle sue figliole molto ammirata dai vicini di Netherfield. Il signor Bingley l'aveva fatta ballare 2 volte e anche le sorelle di lui l'avevano notata. Tutto ciò non aveva fatto a Jane meno piacere che a sua madre, benché lo desse meno a vedere. Elizabeth intuì la soddisfazione di Jane. Mary aveva sentito che parlavano di lei alla signorina Bingley come della fanciulla più istruita del vicinato. Quanto a Catherine e a Lydia, erano state abbastanza fortunate da non mancare mai di cavalieri, il che, per quanto ne sapeva loro, era l'unica cosa di cui ci si dovesse preoccupare a una festa di ballo. Ritornarono dunque d'ottimo umore a Longbourn, il paesello dove abitavano e del quale erano gli abitanti più in vista. Trovarono il signor Bennet ancora alzato, in compagnia di un libro. Il tempo non contava più per lui. In quell'occasione, poi, aveva egli stesso una buona dose di curiosità in serbo circa lo svolgimento di quella serata, che aveva suscitato tante meravigliose aspettative. Aveva quasi sperato che tutte le mire di sua moglie sul forestiero fossero state deluse, ma non tardò ad accorgersi di dover ascoltare un resoconto affatto diverso. «Oh, caro Bennet!» esclamò la signora entrando in stanza. «Abbiamo passato una splendida serata! Un ballo magnifico! Peccato che tu non ci fossi!» Jane è stata ammiratissima, al di là di ogni aspettativa. Tutti dicevano che stava bene e l'ha dovuto pensare anche il signor Bingley, già che l'ha fatta ballare 2 volte. Pensa, caro, l'ha fatta ballare 2 volte, parola mia. È stata l'unica alla quale abbia chiesto un secondo ballo. Per prima ha invitato la signorina Lucas, che stizza gli ha fatto vederlo alzarsi con lei, però non se n'è mostrato per niente ammirato. Che ci riuscirebbe del resto? Mi è parso molto colpito da Jane quando la vide passare danzando con un altro cavaliere. Allora ho voluto sapere chi fosse. Si è fatto presentare e l'ha impegnata per i 2 giri successivi. I 2 giri del terzo ballo li ha fatti con la signorina King, i 2 del quarto con Mary Lucas e i 2 del quinto di nuovo con Jane, i 2 del sesto con Lizzie e il Boulanger. Se soltanto avessi avuto un po' di compassione per me. L'interruppe spazientito il consorte. Non avrebbe ballato neppure la metà. Per amor di Dio, non parlarmi più delle sue ballerine. Così avesse potuto slogarsi una caviglia al primo ballo. Oh mio caro, continuò la signora Bennet. Sono assolutamente entusiasta. È un così bel giovane e le sue sorelle sono donnine affascinanti. Non ho mai visto in vita mia vestite eleganti come loro. Scommetto che il pizzo che ornava la gonna della signora Arsta a quel punto fu nuovamente interrotto dal signor Bennet, che protestò contro ogni descrizione di eleganza. Fu quindi costretto a cercare un altro argomento. Raccontò allora con una certa amarezza e parecchia esagerazione la scandalosa villania del signor Darcy. Ma ti assicuro, soggiunse, che Lizzie non ci perde molto a non andargli a genio. È un individuo detestabile, antipaticissimo, a cui non vale la pena di piacere. Così altezzoso, così pieno di sé, che non si riusciva più a sopportarlo. Passeggiava di qua, passeggiava di là, immaginandosi di essere chissà che grand'uomo. Neppure bella abbastanza per poterle ballare assieme. Vorrei che ci fossi venuto anche tu, caro, così lo avresti messo a posto. L'odio, non c'è che dire, l'odio. Capitolo 4. Quando Jane ed Elizabeth furono sole, la prima, che dianzi si era mostrata cauta nel tessere le lodi del signor Bingley, volle esprimere alla sorella tutta l'ammirazione che provava per lui. È proprio come dovrebbe essere un giovane, disse. Di buon senso, gioviale, vivace, e non ho mai visto tanta squisita educazione, una così notevole disinvoltura accoppiata a modi tanto perfetti. Ed è anche bello, rispose Elizabeth, eppure così dovrebbe essere ogni giovanotto, se appena possibile. Perciò non gli manca proprio nulla. Mi sono sentita molto lusingata dal suo invito a ballare con lui una seconda volta. Non mi sarei mai aspettata un tal complimento. Davvero? Io sì, invece, per te. Ma già, su questo punto ne siamo molto diverse. Tu sei sempre presa alla sprovvista da qualsiasi complimento, e io invece mai. Nulla di più naturale di quella reiterata richiesta, mi sembra. Non poteva meno di constatare che tu eri almeno 5 volte più carina di qualunque altra dama nella sala. Non c'è di che ringraziare la sua galanteria quanto a questo. Comunque, è certamente molto simpatico e ti permetto che ti piaccia. Ti sono già piaciute persone alquanto più insignificanti. Cara Lizzy, tu Tu sei fin troppo ben disposta, lo sai, nei riguardi del tuo prossimo. In generale, non trovi mai irridire sul conto di nessuno. Ai tuoi occhi, tutti sono buoni e simpatici. Non ti ho mai sentita parlare male di un essere umano in vita mia. Non vorrei mai aver troppa fretta di biasimar nessuno, però dico sempre quello che penso. Lo so, ed appunto questo è il ridicolo. Essere così sinceramente cieca dinanzi alle follie e alle stupidaggini altrui, col tuo buon senso. L'ostentazione del candore è cosa abbastanza comune, la si riscontra ovunque. Ma l'essere candidi, senza ostentazione, senza partito preso, prendere il buono di ogni carattere e cercare anzi di renderlo migliore, tacendo nei lati negativi, questa è una caratteristica soltanto tua. Così dunque ti piacciono anche le sorelle di quel giovane, non è vero? Eppure le loro maniere non sono paragonabili a quelle di lui. Sulle prime certo che no, ma conversando con loro ci si accorge che sono anche loro molto simpatiche. La signorina Bingley verrà ad abitare col fratello e a tenergli la casa, e mi sbaglio di molto se non scopriremo anche lei una vicina ideale. Elizabeth ascoltava in silenzio, ma non era persuasa. Il contegno di quelle signore alla festa di ballo non si era rivelato tale da soddisfare l'opinione generale, e più pronta nell'osservare, meno arrendevole di carattere di sua sorella, e dotata inoltre di una facoltà di giudizio irrefrenabile, si sentiva molto poco disposta ad approvarle. Erano, per vero dire, delle perfette signore, ne mancavano di giovialità quando si sentivano soddisfatte, né della capacità di riuscire simpatiche quando la cosa era di loro gradimento. Ne erano altezzose e superbe, piuttosto belle. Avevano ricevuto la loro istruzione in uno dei primi istituti privati della capitale, avevano un patrimonio di 20.000 sterline, solevano spendere più di quanto non potessero e frequentavano gente di ceto elevato. Erano perciò incoraggiate, sotto ogni aspetto, a nutrire una buona opinione di sé e a pensare male del prossimo. Provenivano da una rispettabile famiglia dell'Inghilterra settentrionale, circostanza questa più profondamente impressa nella loro memoria che non quella che la sostanza allora del fratello era stata procacciata col commercio. Il signor Bingley aveva ereditato una sostanza di circa 100.000 sterline dal padre, il quale aveva avuto intenzione di comprare una tenuta, ma non era vissuto abbastanza per attuare il proprio intento. Il figlio aveva nutrito lo stesso proposito e già diverse volte aveva fissato gli occhi su questa o quella contea ove stabilirsi, ma poiché si trovava ormai provvisto di una buona casa e della comodità di un castello, a molti di coloro che meglio conoscevano lo scarso impegno della sua indole, rimaneva il dubbio che egli avrebbe potuto passare il resto dei suoi giorni a Netherfield, lasciando alla generazione successiva l'onere dell'acquisto. Le sorelle tenevano molto che egli possedesse una tenuta sua propria, ma sebbene egli si fosse per il momento stabilito a Netherfield soltanto in qualità di affittuario, la signorina Bingley non si mostrò punto restia a presiedere alla sua tavola, né la signora Hurst, la quale aveva sposato un uomo più mondano che ricco, fu meno ben disposta a considerare sua propria la casa del fratello ogni volta che gliene fosse venuto il capriccio. Bingley non era maggiorenne neppure da 2 anni, allorché una casuale raccomandazione lo invogliò a dare un'occhiata al castello di Netherfield. Lo vide, di dietro e di fuori, per mezz'ora, si dichiarò soddisfatto della posizione delle stanze principali, fu contento di quanto il proprietario ebbe a dire in lode della casa e l'affittò immediatamente. Nonostante la grande diversità dei caratteri, fra lui e Darcy regnava una solida amicizia. A Darcy, Bingley era reso caro dalla spontaneità, la sincerità, l'arrendevolezza, sebbene nessun'altra indole potesse offrire maggiore contrasto con la sua, e sebbene della propria appunto Darcy non si mostrasse mai insoddisfatto. Bingley aveva la più ferma fiducia nella forza dell'opinione di Darcy e la più alta stima del suo giudizio. Per intelletto Darcy gli era superiore. Bingley non era affatto uno sciocco, ma Darcy era intelligente. Al tempo stesso era altero, riservato, ipercritico e i suoi modi, per quanto educati, non erano invitanti. Sotto questo punto di vista il suo amico deteneva nettamente il vantaggio. Bingley poteva essere certo di piacere ovunque si mostrasse, laddove Darcy recava continuamente offesa. I loro commenti alla festa di ballo di Meryton erano abbastanza caratteristici. Bingley non aveva mai incontrato in vita sua persone più simpatiche o fanciulle più graziose. Ognuno si era mostrato cortesissimo e premurosissimo nei suoi confronti. Non c'era stato tono ufficiale, non ombra di alterigia, ed egli non aveva tardato a sentirsi affiatato con tutti i contenuti. Quanto alla signorina Bennet, egli non poteva neppure immaginare che un angelo fosse più bello. Darcy, invece, si era trovato di fronte a un'accolta di gente che lasciava molto a desiderare, sia per bellezza che per singolarità. Non aveva provato il minimo interesse per nessuno, da nessuno aveva ricevuto attenzioni, nessuno era riuscito a svagarlo. Riconosceva che la signorina Bennet era graziosa, ma affermava che sorrideva troppo. La signora Hurst e sua sorella furono d'accordo nell'ammetterlo. Tuttavia avevano provato per lei ammirazione e simpatia e sentenziarono che era una fanciulla deliziosa, una fanciulla con la quale avrebbero volentieri approfondito la conoscenza. La signorina Bennet venne dunque definita una ragazza deliziosa e da tale apprezzamento il loro fratello si sentì autorizzato a pensare a lei a piacer suo.